Billy. Attenzione 10, K! Hola, hola, hola! Hai un fermo casino! E beh, Billy! Ui, e beh! Emanuele! Tutto bene? Sì, già, ti ho visto stamattina, come ricordi? Ma con la moto vero era a piedi? In moto, la bretella! Ti hanno detto? Stavo facendo le commissioni di appellamento. Ah, andava. Chiappa gaffa. Chiappa la ruia. Ma non so la paranoia, stava già andata a buio. Ah, ho smontato alle 8 stamattina, mi faccio parlare. Voglio risposte. Ah, ma tu c'è travagliente, cazzo. Cavaliere per la Madonna. Non c'è nulla. Lasci i topi, dai. Davvero, cosa di loro in alto? Cade che ci faccia da tratti? Oh, io c'è adesso. Ma c'è uno con la portanza, ma no, no, non sta facendo il radio. E ce l'hai detto pure io, avanti. E vuol dire se è traccato. Beh, Maru è... Issa dalla Magname. Affamato, boh. Se la usare di dormire, un gatto si riesce da davanti ed è con la fame. E da passare vicino a chiedere, casa di scelta c'è per fame. Ah, sono magnà che deve... Che è minore ancora, diventa più manno. Beh, a tu. Allora, cosa mi dici? Piano, piano. E cosa è perché? No, anzi, io faccio il cuore al ciclotto. YouTube non me lo fa bloccato. Ma faccio un po' la puntata, siamo bravi, però. Ehi. E fallo vedere a Luca, a Tirogava a Luca. E gli apprendisci, ecco. E senti bene questi cose, per cui sta per la fase, dai. Romeo era. Romeo era del problema. Non mi faceva entrare in internet. Il segnale c'era, però non mi faceva entrare in internet. E da poi meno male mi sono riuscito a cavarmi a farlo funzionare. E non era facile, ma si è schiacciato dalla linea, però, boh. Ma che io sono attaccato ai miei figlioli, capito? E allora mi dà un problema malissimo. Ma che si accendì, così che da me non entrava. Ma si è buttato una cazzola, ma poi ci ha attaccato e era funzionante. Ah? Aspetta che c'è lo scotch inserito. Ti chiamava. Già ti intendo, che se sei magnetti. E già finito, vai. Oh, già, è bello la vita. Ehi, eccoci qua. Eccoci qua. Paranoia. In questo tempo. Un casotto, eh. Beh, adesso ha fatto mezz'ora fa. Stasera, domani mattina mi alzo, mi faccio la sala, mi pitturo, mi chiamano, è già pitturato, ci faccio, a chi da poi fai una ricaduta per servizio. Eh beh, cioè, almeno ama con te lui, che si mantiene sempre in forma, capito? Oh, yeah, per carità. A proposito, risolta per il tuo cognato. Ma cosa ha risolto? Tu hai ancora che dà, ancora non va bene su nulla. Mi dispiace grazie per la visita, grazie. E non riuscì a sapere a che cosa lo manco. Che avrà fatto fa poi c'è la ghivi, grazie. Ah, penso paese, non mi metto in mezzo io domani, saranno un po' di tue, la mano per salute. Vabbè, ma mi dispiace, ma hanno dai cosa, lo manco, grazie, vedi. Magari capace si va, non ci abbiamo salutato, a che sole ci abbia risolto il problema. Vabbè. Perciò per lui dai mano è vaccinato. Quello lì non è stato del civile, quello lì, quel meccanico, non è stato del civile, ti dico io. E ti dice da una cosa te ne dico un'altra, da un'altra cosa te ne dico un'altra ancora quando non fa. Per forza, ma ci sarà interessato, ma penso bene, non interessa più di tanto, anche se no abbiamo fatto come c'era il tigre, ma questa di sicuro abbiamo saputo cosa è, cosa lo è, certo. Invece, così è di ripigliare un bene di là. E poi con l'acceleratore nuovo vuol dire che non dipende dal motore, e la ruota lo mette le visci, e senz'altro dall'impianto elettrico. A chi è pure in un blocco sotto al manubrio, una favola, capito? O da Cimburi si è bruciata la favolina, cazzo, o di staccato il filo, ecco. E si attacca così, a chi... Cazzo, è un gioiello che è il savotto. Lo siamo di lì, non lo so. Quello doveva aspettare come gli abbiamo detto. aspettare il pezzo, devo fare la manopola, se la questa. Se non lo, se le faceva lo stesso problema, allora sì che si puntava alla ruota, al blocco della ruota. Ma infatti, aspetta, l'avrei evitato anch'io, gatta. Infatti eravamo rimasti così, che appena che mettevamo l'acceleratore, si prendeva l'acceleratore, avremmo aperto sotto il manubrio, c'era la valvolina lì, e sono tutti attacchi dei fili, capito? Guardate pure, c'era da lì. Certo, vabbè. Per lui. Mi dispiace veramente, perché è un oggetto che l'ho dato io e io catta, mi stavo preoccupando anche per quello, perché catta, a vedere una cosa che ho dato io che non funziona mi dispiace, capito? Ma quasi tu lo provi, chi c'è? Il sasso? Due cose mi va di provare, è buono, è male. Ma poi sarebbe stato di nuovo tutto. Pazienza. Vabbè, ma lo è. Allora. Roccoletti? Giovanni, cosa vuoi dire? Di oggi sei molto. Tutti siamo qua, rilassati. Perché sei entrato Torino? Tonino c'è fallerta. Ma una fine la telefono riprende Tonino. Capa, ciao Giovanni. Ciao Antonio e ciao Emanuele. Andiamo. Riprendi a tu. Capa, buonasera a te. Emanuele, ma tu mancando sei? No, sta passando. Sta facendo guardare la macchina, ma. Cosa dice? Perché non può essere uno che mette la macchina in macchina? Prendi su che viene anche il cucciacchino, capo? Ah, mi metto in macchina a San Pedro, che non ne vale la pena. Dove sei? A casa tua? Adesso mi sono alzato. Stava, mi davo un'idea se mi sono a cucare, tanto da fare. Ma a riposo sei oggi? Oggi sì, e tanto sono diventato a lutto, stamattina. Mica è pietà. Anda bene meda, vabbè, io ho preso due gomme da fuori, me la date che non si vede, ho telefonato, ho fatto un casino, me l'ho di nuovo, ho comprato quella bobina grande trasparente, l'ho tutta bella torcigliata, l'italiano mi ha fatto il telefono a Milano, Cirisello Massimo, e oggi mi doveva venire il corriere, ci ho controllato in casa e già rimane non è giunto, ho mandato un messaggio e ti ascolti. Va a leggere quanto al bene. Ehi, non ci preoccupi, entro le 19 potrebbe venire, se non ce la fa fare il giro, viene domani il corriere. Ma mica che il corriere è, ci telefono io a vedere se quando viene, a me sono sicuro posso uscire. Non vorrei che io esco, faccio la commissione, poi incominciamo e non mi so che casa, questo mi dà fastidio. Non so quello, immagino. Tutto casino, ma non è comunque, hai visto? Ma non so bene, ma non so, le gomme davanti. Ehi, ho preso un paio di gomme. L'occasione è fuori, belle, però hanno oltre 10 anni e sono cristallizzate, non si vede, è fatto un gomistetto, non ti hai piatto neanche, sono pericolose. Ah, sta bene, non è per male, come da internet, non è più ma sono obbligato a fare un culo. Manuel, l'ho preso tempo fa, per la Ford Focus sono sempre suonate bene, sempre la stessa ditta. Questa volta chi travaglia chi perché per eliminarle, non lo so, comunque. La segretaria, vabbè, non l'ho mai traduta, che lei lavora in ufficio e basta, non lo sa cos'è qua. Comunque le ho accennate e le ho trovate indietro. Mi ha mandato gli italianini per attaccare della spedizione, viene il coso, il corriere, pago sotto 15 euro, meno male. Perché se spedivo io pagavo molto di più. Vabbè, cazzo, tu cazzo di pure spedito, non va che ti hanno dato una pilata a Baruburu, cazzo di dover anche spendere il sole per spedire. Se no devo pagare 30 mi ha detto, capito? Ho già lo sconto. No, non mi fido io a prendere gomme così. Se l'ho fatto magari senti in lega, non ho di soldi, ma gomme, le gomme da scappo una marea, no. No, ma adesso non le compro più, me ne compro sesso e basta, le vedo, e buonanotte. Avanti, a tu. Ma hai fatto, come hai comparato di no? Tanto voi che arrivano, non più presto. ma poi per piazzarmi come sto, ecco, non mi hanno cambiato qualche cosa, no. Eh beh, infatti è malata cattiva. Poi qua vogliono 25 euro per piazzare le due gomme, fatelo conto. E c'è gatto mi gusta, l'altra domanda è occupare il giro che c'ha, se posso prima. La stessa gommista me ne dà l'occasione, ma è piazzato lo stesso. E quanto me ne fa pagare? Tondo e risparmio pure, perché non pago tutto questo casino su di gà. Come l'occasione? Io per la moto ho speso 120 euro l'una, però la mia era solo Suzuki o Kawasaki tempo fa. Tu Manuel c'è a posto con le gomme, sì? Sì, le gomme c'è, io quando l'ho preso erano a posto, l'avevo appena cambiato le gomme. E adesso io ho fatto fare anche i paraurti, l'ho fatto premessare, i circhi che erano tutti graffiati. Già si acqua bene, dai. Sì, l'ho preso, guarda, se ne conosce. Cazzo, l'ho portato da uno che conosce anche tu, sono a fare due paraurti, se tu sei tu, ma può fare. E io ho chiamato Valentino, quanto mi aspetta per cambiarmi i giunti mucinitici. E lui mi ha detto, solo di manodopera per ogni gomma, ogni ruota, 50 euro. Che 100 euro di manodopera, due ruote. Più i giunti mucinitici, mi viene più di 200 euro per 6 euro. E io adesso me adesso la porto a fare un tagliando, veramente, la porto a fare un tagliando, candele, filtro e la cartuccia di luce. E io devo fare la cicchia distribuzione, pure devo fare. E adesso mi Manuele, un altro po' aspetto, la tredicesima, e allora faccio tutto questo che devo fare. Ah, fatto una pezza la ruba. Fai da bravo, che sto aspettando il colpo gombo. E a prescere se andava a farci benedire. Non ti piace mai i russi, né cose, né cose, non mi pareva bene, ma mollo e vale a cos'è Gio Marì? Era tredicesimo, se ne fa andare a benedire. Vabbè, a me già mi tocca la bella tredicesima, capito? Quindi, per quello non mi posso lamentare, me ne avanza pure un me. Caso è per il mancare, cosa vuoi per un zocco? E lo so, io guarda, ho già calcolato, almeno 400-500 euro devo spendere, basta. Tra cicchi di distribuzione e giù di mucinici. Allora, fino a l'altra, allora, dai. L'agnone, un buchito di avvici, dai. Lo dico subito, mi avanza già oltre 1.700. Allora, non vi do problema, allora, Non commetto Manuele che tocca a esercità. Manuele c'ha la chiesa a posto, dai. Vabbè. No, però ho una bella pensione perché ho 40 anni, su 40 anni di contributi versati, quindi grazie a Dio non mi posso lamentare. E poi giustamente qualcosa a parte da ce l'ho, non è che sono ancora a terra. Soltanto ho detto, fin quanto mi dura, se vi ravvozzo è bene, fatto. Lo fa solo quando sterzo, fa un po' tra, poco poco, non tanto roboroso, capito? Però devo stare attento, perché se si faccia tutto, la ruota si andrà a contusuglio e non la conviene più la macchina. Io faccio cammino piano piano, anche non mi butti. Quella roba bisogna tenere a bel conto, per cui se ci vuole una cosa bisogna avvertire subito al dovere, perché più tardi è peggio è. Lo so, vabbè, e che ci vuoi fare? Antonio, meno male che tu non hai questi problemi giù da Mucinizzico. No, ma tu giù da Mucinizzico non ce l'hai nella ruota la moto, dai. Variante E vabbè, io devo fare cicli distribuzione, ci ordiniamo a Tessi. E dirò che la frizione, grazie a Dio, è ultima. È veramente bella perché non sto compiendo sulla frizione, quindi grazie a Dio non slittano anche a fare la frizione su 450 euro come minimo. Tra manodopera, disco, spingi disco, plateau e tutto cazzo, la GMOBD. Vabbè, Emanuele, riprendetela. Ma è giusto, ma hai preso qualche costo? No, Emanuele, però la macchina c'ha 21 anni e quando giro sotto... Allora, ho fatto un'analisi, ho parlato pure con meccanica, eccetera. Purtroppo dove abito io, parla fino a casa mia, misuri i flussi, è come se come di serrato, e quindi la macchina è molto delicata, colpi oggi, colpi domani, alla fine andare nel tempo, anni, si incasina il giunto bucciniti, che sono cuciniti, già lo sai. Già lo so, faccio un altro sabato, tutte e due nella fitto io. A chi no che è venuto il padrone, ma che non asfalta questo cancello fino a qua? No, la casa, la strada in campagna c'è più bella così, sì, ma lei se ne frega che c'ha un bel di soldi, un bel di macchine, non gliene ha puttinuta, ma io mi faccio la macchina e faccio, c'era, guarda, quello dell'auto se ne è scappato via qua, perché rompeva sempre i braccetti, poveraccio. Ma io dai, poi metto la ghiaia, tappo i buchi e poi passerete correnti e la ghiaia si dice tu in paratura, una due di non vede più, e torna i buchi, si la piglia luci. Ma poi l'acqua che fa, con tutta l'acqua che fa, poi te la butta tutta giù la ghiaia. E allora? Sempre i buci bisogna, infatti io cammino piano piano, arrivo fino a casa. E devo fare sempre 200 metri, Emanuele, da lì, da cancello fino a casa mia. E quindi? Ma, vabbè. Cosa abbiamo? La macchina nuova e fascia mira, non penso proprio. Se c'è un problema, la casa è mennata, la gibra la abbiamo nuova. Metti, devi prendere un po' di strada, un bel pagello, ti prendi. Cosa mi prendo? Un bel pagello per fare quelle strade lì, quelle stradine. Allora sì, non mi fai niente, avanti. La capite che non vi vivo la bomba, trighio, e fa rasare tutta la suola sta casco di strada, per carità, no. Sto cercando, appena trovo, minando c'è via tutte le luci. Vai. Sono io, qua è Mario, però faccio entrare qui la macchina nuova, l'ho con me, a chiedere il pagello subito. Ti vedo un carro armato per la fede che altri scuderi non fa più niente la gioia. A me mi pare che mi posso prestare un di nuovo, una mano meccanica, mano. E qui c'è razzicava e a falasse muro, mi bacio. A vedi non c'è la pupusse a voi. Che oh, io faccio dal 2003 la mia. No, questa qua ce l'aveva mio figlio, 2021. Allora è vecchia, è più vecchia quella allora. Mi sono sbagliato 2021, 2001, 2021 fa 2 anni appena, magari, 2001, fate un conto, 22 anni. Mandita, come ha cominciato a servire? Vivo vitto e vivo il altro muro, Ma Giovanni ha un motore che mi fa noi la vista, me l'allegra, cammina, tranquillo, non ha mai avuto problemi, capito? Sì, vabbè, è l'usura, è tutto mocinitico, ma già che ci sono, le faccio tagliando pure, devo fare filtro dell'olio, filtro benzina, tutto canto, ciclo distribuzione, e un 500 euro dai, non fa niente, pazienza, vogliamo fare questi lavori qua, controllo sempre l'olio, sto toccando l'olio con le dita, vedo che è ancora è buono e liscio, perché se è rubito non gliela avrei già cambiata immediatamente, perché l'olio devi controllare così, se è ancora buono e efficiente. Avanti Antonio. Non lo so, però io ho in cosa, non me lo frega niente, lo fanno 20 euro, ma non lo so, non ma nella moto ce ne va poco, dai, su. Non come la macchina, 4-5 litri ce ne fanno, adesso di là. E vabbè, io ripeto, olio c'è processo buono, non mi ricordo la marca, anche non so che chi mi ha, da video un pareggio, so già qual è, che c'è il cavallino con la fiamma in bocca, con la zoologia e pure non me la mangio più, e vabbè, cos'è un cavallino mi pare. Ui, ui, ui, per carità, Manuè, e tu cosa usi? Olio di oliva. Non lo so, no, ancora nell'appunto ci mettiamo olio di bergamolo, nell'appunto, non spiegava niente, ma qua se lo metto l'olio buono, anzi lo faccio mettere, anche quando lo faccio fare tagliando, lo faccio togliere tutto quello, quello vecchio, lo faccio mettere quello, a parte che sarà l'olio buono dietro, e poi mi faccio dire che io lo prendo lui. Antonio, quell'olio che tu dici che lo paghi un becco, ma quelli sono tutti quanti oli riciclati, perché ci lavora l'amico mio a Pretagnita e quindi me l'ha detto lui stesso. Ma ha detto, quando vuoi olio mi a 2-3 euro il litro te lo do, preso a posto. Sono tutti oli riciclati. Si pare di altri l'uso puro esce dalla fabbrica. Brecche. Ciao Antonio, buonasera, guida sportiva, quello per Burrico che c'ha volta, quanto fai? 50 orari. Ciao Antonino, ciao a tutti gli altri amici, dai scherzo. Ciao Gianni, ben sentito. C'è anche Emanuele e Gian Maria. Avanti, vai per chi vuoi già. Ciao Emanuele, ciao anche Gian Maria, scusate se sono entrato così, però ho appena acceso, quindi non sapevo chi c'era. Avanti Emanuele, poi fai girare. Break. Ciao Gian, ben sentito. Vai Gian Maria. Buonasera Gian, ben entrato. Antonio mette sempre quell'olio buono, tutto quello che ha preso lui è tutto riciclato. Ma io gli ho detto, Antonio non ha capito, anche se tu hai la marca, la plastica, c'è scritto olio buono, quella di marca, quello che vuoi tu, è sempre derivato dall'olio riciclato che c'è a Pretagnita, c'è lo stabilimento che l'olio arriva pulcinoso e ti esce pulito, perfetto. È tutto riciclato, te lo sto dicendo, ci lavora l'amico mio, non voglio fare il nome e cognome perché non voglio denunciare. Comunque, mi ha detto lui stesso, io manco già mio, e ci sono andato che ha dato, penso un po', pagami lì. A tu, se va Remono, che dice che vuoi, lo metto anche l'etichetta, mettono e metto anche il sigillo, a futtimi, sono tutti oli riciclati, se no hanno già tutta, abbia osuro appena fatto, oi. Ma di che olio è stato parlato? Olio di matto, per la moto. Qualsiasi olio, macchina, moto che sia. Lui dice che prende l'olio costa 20 euro, 20 euro al litro, però sono tutti oli riciclati, capito? Io questo non lo so, però mi ricordo che una volta ho preso il Sint 2000 che usavo per le macchine mie, usavo sempre il Sint 2000 io, tutte le macchine che ho avuto, centrale questa qua, tutte le altre usavo il 22.000, l'ho presa a Città Marcato e mi ha bloccato i bicchieri e ho dovuto aprire il motore, l'ho dovuto pulire e fare perché c'erano i bicchieri bloccati. Comunque già io lo so perché ce lavora un amico mio, ci lavora. C'è una da Meloni a 3 euro il litro, fate il conto. Olio buono mi ha detto, e vabbè, dunque sono tutti riciclati. Questo l'ho sempre saputo, ma da 20 anni ai cabacchi, pensa un po'. Anda bene, avanti Giovanni. Una volta avevo la strada, era 1950. Certo, sono andato qua sulla Budimuri a fare il rifornimento e dopo ho detto ma anche l'olio ho cambiato, sì sì. Ho detto allora gliela lascio, gliel'ho lasciata, ma che andava bene, ma ho cambiato l'olio, pago, parto, arrivo alla Graziella e non funziona più la macchina. Loro hanno quelle tabullane puste da 200 litri, poi io ho visto, certi meccanici. Attacco lo gozzo, pompani, le butto via, capito? E trovate magari a carro, la massa viene varia. Ma scusa, se loro lo riciclano per della viscosità, una volta che è bruciato l'olio, come fa a riciclare? Aspetta, non è come dici tu. Ti dico un'altra cosa, ci dovresti arrivare da solo. Hanno fatto vedere in televisione, questo è andato, non so, di una specie di tipo da vicino spaziale, però era sulla Terra. Lui è stato un mese dentro. Allora con la sua pipì andava lavorata tutto quanto riciclata e usciva l'acqua potabile e lui beveva quell'acqua, la faceva di nuovo pipì, di nuovo riciclata. Oggi che oggi Gianni fanno le cose e ti fanno mettere additivi, cosa, ti ritorna l'olio perfetto. Non penso, perché l'olio d'oliva, tu pensi quello che vendono sia perfetto l'olio d'oliva? No, penso proprio. Poi hanno fatto vedere quante cose mettono in mezzo, ti esce olio d'oliva, sapore tutto quanto, la gobbi lì. Quello che non so, per colorarlo ci metto degli additivi, sembra olio extravergine, invece è olio degli sugati che ti fa di burumare. Ecco perché tutto quanto è riciclato, è un casino, capito? Figurati per i motori di moto, macchine, i motori loli, che comunque è caro, cosa beh, è buono, non è vero, sono tutti riciclati, capito? Io piglio quello, non mi ricordo come si chiama, scusa, mi dice grigio, rimarca, però sono tutti riciclati, lo sappiamo già, dai. Poi sventi, non c'è neanche in giro, pensa un po', per carità. Manuele, recicla Tonino. Guarda, io dico solo una cosa, ecco perché molte cose poi che mangiamo ci fanno male, cavolo, purtroppo non è più, io mi lamento la buona di mamma quando facevo minestrone nel 60, era un signor minestrone, questi sono pure così buoni, oggi non venuta buono, tutto canto fatto a... Bah. Tutto canto a... tutto gelato ormai, Ma ci mettevano i fagioli, in caso li sbucciavano i fagioli, ci mettevano il sedano fresco, ecco perché ci fa buono, noi mettiamo roba surgelata a Torino, e chi dà la ragione? Surgelata, ma chi sa che fa, se la verdura la fanno sempre nelle campagne, ci mettono roba strana, la fa crescere in pressa e farne un bene perché la popolazione è quella che è, giustamente. E quindi loro dicono sempre roba a fare minestrone, capito? Lavata, surgelata e via, e vendono insomma migliaia di quintali che loro ne fanno, capito? Quindi è roba rifuzzata, chissà che cosa male su che buono il mezzo, ecco perché a volte ci fa anche male, non è più quel sapore che dava una volta il minestrone, è vero. Quello sì, mi ricordo i fagioli sgranavano, ci mettevano al bagno, è tutta un'altra cosa, dai. Ormai, e anche la Nutella quanto era buona che la vedevano sfusa, poi c'era anche la Cremalba, finalmente bruciò gli anni 60, e io tutta un'altra cosa, adesso è tutta roba, fa carità, no. Mi, proprio il pollo me lo cucino io, perché almeno so cosa, come te lo cucino, poverine, anche noi sono nati chissà come te, a buffo. Anche i polli gli danno... cose per ingrassare, capito? Li buffani, l'hanno fatto vedere, li fanno le iniezioni per sembrare più grossi. E perché i viste come le fanno? Li ho viste, ma io ci vado a mettere gli viste, mamma mia. Ma io li mangio ancora perché mi piacciono tutti, mi dispiace, ma me li faccio arrosto con ketchup, mi piace di grossi. se trovi il video te lo mando così non li mandi più. È uno schifo, sono il sono un insieme di carri che metto, non lo so, e perché il salsiccione tu non lo mangi, se sai cosa mi vuole il salsiccione tu non vai manco per il capo. Sì, anche il salsiccione è uguale, anche il salsiccione, tutti i salumi sono così. Allora Antonio lo so per esperienza, perché lo sai che io ci ho lavorato in mezzo. Il salsiccione ci mettono un colorante praticamente a rosso per far vedere che è tutto carne, che non c'è grasso, capito? E lo fa tutto bello rosso e tu guardi, guarda qua non c'è grasso, è bello, guarda, non c'è manco grasso. Sì, è vero, l'ho visto anche in televisione. Eppure a voi dice cazzabolo, oh, yeah. Un attimo riprende il telefono già. Sì, Giovanni. Io guarda a Torino, il salsiccione arrosto è l'unica cosa che non mangio perché mi sta sullo stomaco, posso mangiare pancetta, capocollo, tutto quello che vuoi, il salsiccione è pura brida, come ti serve mangi in butto una brida, chissà cosa ti bonini, oltre a queste cose qui ci mettono cose che fanno male, perché io non lo digerisco, e io digerisco anche la pietra, ma il salsiccione mi stressa sullo stomaco. E tu pensa ai views come lo fanno, tutto macinato viene, fate bottiglia, io il Santo Antonio mio, vabbè, occhio comunque, dobbiamo stare attenti anche a quella che compriamo, la pasta, ancora c'è farina di grillo. Madonna, sì. Non so, però tu, prima di chiudere Città Mercato stava vendendo le cavallette fritte come le patatine, ce l'ha comprate il figlio di un amico mio e ha detto che erano anche buone. In festa, per carità. Infatti come le patatine la vendendo. Io non ce l'ho attaccato. Chissà che altri fusi ne mangiati, chissà cosa te lo ti sei mabizzato. A non gire, ma tu a Rocuccio travi la mano a mangiarmi, oh. E te ne immagini, lavora una patatina, finire la cavata e tutti davanti. E non ne sai. Sì, e gli indiani, i vici, la vedi come ti cucinano. Se vedi come ti cucinano gli anichisti, e come fanno le cose loro, cazzo di vicini russi. In Africa è peggio, cavallette e scarafaggi, gnagnagna in mezzo ai denti, tutto chi c'è, che schifo. E i cinesi risulti che arruscio, i sarroli di voglia arruscio e frissi. Ma proprio niente che vanno a mangiare, si può cacciare. Io mangiare in casa mia, so io quello che cucino e mangio tranquillo, grazie a Dio, ma faccio né mal di stomaco né nulla. Andare. Stasera mi faccio una bella salatina di pomodoro e kimona, come cacchio si chiama, camona. Belli, belli. Già, non sai che ho trovato questo negozio a Fuerteventura che poi conosco anche il ragazzo che si lavora, il tipo, perché è il marito dell'amica mia. E il camona di solito con grossi belli ne paghi quasi 4 euro il chilo. Lui è stato a 1,99. Sono delle arruba proprio. E dov'è questa Fuerteventura? Latte dolce vicino a Antonio, dietro la Conad. Quella frutta e verdura dopo la farmacia, più avanti. Ah, a tu giudici, lo sai dov'è? Non credo, non so. Il marito, quello, io conosco il marito di Monica che lavora lì a cosa, di Michiso, al panificio che c'è giù, alla Triozzi, da Cesaraccio. Quella biondina col ciuffo bianco, quella lì è cosa, la moglie proprio che lavora lì. Già lo so, io ho preso le domande dal marito, lo manco, mi ha dato mangiare a palla, l'avevo preso. Comunque Emanuele, c'ha un po' di roba buona e costa tutta poco, eia. E io allora quando compri camona per esempio a sul mercato 2 o 3 giorni fatti chiuso delle lampi, ma ci credi Gianni, io prendo un bel po' ne apprezzo, non ancora in frigorifero e tiro, sono ancora belli duri e buoni, saporiti. Allora io ho trovato un tipo di pomodori, si chiamano pomodori di campo e li pago a 1,20 il chilo e sono buonissimi, hanno il sapore proprio di ciliegina, dolci dolci sono. Li prendo lì da ditta lì vicino a casa e veramente sono veramente buoni tutti. Perché il pomodoro da Terino Maro è, quando lo fai con gli spaghetti, e padella con un po' di foglie di basilico, Sant'Antone mio. Già lo so. Però se vai a comprare altri pomodori sono a 3 euro il chilo, si possono comprare. E se le mele a 2 euro il chilo. Ti fai contro il mio, ti spaventi. E infatti io ho visto visto che lui c'ha bella roba, l'ho provato, visto che era buono, sono andato a mandarmi anche 3 kg, capito? Adesso vado sempre là perché c'è roba buona, come i finocchi tutto quanto. Lo sai cos'è l'unica? Trovare qualcuno tipo sulla BBV che c'è proprio il contadino che ti porta la roba da vendere, la coltiva lui e c'ha di... A quello che si mette dove c'è la rotatoria? Sì. No, da lì non ci andrei, manco se mi pagano $1 milioni. Ma che adesso c'è brillato che c'è una buccia. Innanzitutto è un po' caro, prima base. E lui ha detto, non so di non lo fai. Non ce l'ho la macchinetta, se vuoi farlo l'offio e vuoi venire più caro. Fa una cosa, tenete la roba, non ne voglio più, me ne sono andato, vai arrangiati, per carità. Io ho gli operai che lavorano, qua mai ci me la mezzo, vai, mai gli operai. Eppure qualche giorno mi cica di tanti. A me mi sono mangiato dal mercato negruso e poi ci vuole venire come in campagna sulla roba, ma. Ehi, se va qualche controllo, se lo fa gli scontri sono fatti su. Perché anche questi ambulanti così c'hanno la macchinetta con la portatile per fare gli scontri. Lo so. Gio Maria, quell'X, Manuele. E così è caduto da tutte le parti, comunque. Non vai da una parte, vai dall'altra, sono carico, di saluto. Oggi due cazzate giubilate, da 50 euro mi è tornato 20 centesimi, a tu riprima. Ah, ogni volta che andavo a fare il video mi dà un impegno. Noi ci ha impiegato Nicola, se non è cara. Ancora cazzo la farmacia. Un bel cara, Manco male hanno fatto di una colazione, no, io vado alla discoteca che c'è vicino a casa e mi trovo bene. E vabbè, poi conosco tutti per nome, riconosco tutte le commesse, tutti i commessi, riconosco tutti. Ma lì caro è 8 già. No, diciamo che ci sono certe cose che costano meno e ci sono altre cose che bisogna saper comprare. No, certe cose costano poco, dai. Tipo il mangimi per i cani, adesso sono in offerta. Se tu guardi il giorno che c'hanno l'offerta, paghi tutto. La birra con la grande, la tira, costa 75 centesimi in offerta. Cazzo è grande, è cara, io la pago cazzo a 55. Ma la grande, mi sto dicendo, non la piccola. La grande, quella da quella lunga, quella da 75. Una buona birra, meno di un euro, scusa. Guarda, quella che prendo io è anche non filtrata, è quella migliore che c'è. Di Chinusa non filtrata? No, non è Chinusa, è una birra tedesca. Guarda a me, io bevo acqua e blu. No, io già quando capita già mi piace. Beh, con la pizza ci sta bene, se ti prendi la pizza, un bicchiere di birra ci sta bene, non dico di imbriagarsi. E tu gelati a cosa stai mangiando? No. Le vaschette da chilo, no, ma da 2 kg sì già. No, non le sto più mangiando. No. Sicuro? Mica ti faccio l'esame del sangue, mica. Giuro, non le sto più toccando. Anzi, mi è venuto lo scrivizio l'altro giorno di prendermelo, poi però non l'ho preso. Che prende freddo, sennò l'avete invidiato. Oh, a me mi piace sempre il gelato, freddo o caldo. al limite mi posso prendere fare colazione, sì, quello lì. Magari con la pasta, la colazione l'ho fatta, però il gelato non si può mangiare. Non ne puoi mangiare di pasta, che sei diabetico tu, ma lo vuoi capire? Adesso faccio colazione alle 5:30. Poi capita che esco a casa a fare commissione, cose quella per l'altra, eccetera, eccetera, arrivo al 10:30, 11, mamma mia, mi metto, ma di sopra che ho fame, mi fermo un bar, mi prendo una bella cornetta, la marmellata, con la sa, e un bel caffè macchiato, e poi sto bene, sino all'una, 1:30, 2. Non ne potete mangiare voi che siete diabeti, avete capito? Questa è la voce della vostra coscienza. Mirmi, ciao Tatalì. Invece Tatalino non lo dice ma lo fa, si mangia le piatte di pasta con l'amico, si mangia la pizza, io sono rudito. Però a me lo ammazza la glicemia a 5 miglia. Ho preso. Io ne mangio poco. Però quando mangio, mangio bene. Sana, salì. Comunque, io so per la pace, Gianni. Una volta la Natalina mi ha detto, io Tonina ti pago il caffè, siamo andati al bar e siamo mangiato tre pacchi. Ha detto, ma non lo dire a nessuno, non lo dire a che frequenza. Siamo abbiato un caffè e basta. Vai, va un raggio. E poi Gianni Giarusaghi non ne mangio. Bianco per me. Mie siete bastardi tutti e due. Bianco per me, ce la risentiamo. Ok Antonio. Ehi Antu, va bene, dai, ciao. Ehi Natali, già lo sappiamo che lì stato viene la Puglia, dai. Oh, dopo c'è il coraggio, questo Natalino, di fare la pasta e così, dopo ti manda anche le fotografie a vederle, capito? Beh, è proprio da reato a mandare la fotografia, ma ti dico che ho mangiato. Ah, pittina, stasera per esempio, siccome non avevo niente da fare, mi sono messo a collegare, ho collegato il Quebec, Montreal in Canada, la Russia, un russo collegato, di brutto. Cazzo, dopo cosa giuro? Ehi, mangio un quaderno pieno. E quest'elle a te ne mangio? Ma ne voglio io quest'elle, no, non ne faccio, no, non mi batte nulla. Mi interessa il collegamento, il buco. Vabbè. Interessante che è collegato, vuol dire che l'antenna sta andando bene. Poi non sei l'ultima già. No. Una volta ero qui ci preso, ho posizionato la macchina, Natalino, dai, sale che ti faccio il caffè, ci ho pensato a casa Giulia. Dai, dai, fai la fotografia, quel bel caffè, guarda. Aspetta, no, fammi togliere il vassoio delle passe, sennò poi lo vedono. Mica è bastardo, mio nome è vero, cazzo, è anche bugiardo, questo Tonino, cazzo. Ma gli altri un paio, cazzo, quando ti sei mai niente la pasta ti porto la fotografia e ti butto. Vai alla cuba. Aspetta, tra un po' collego pure io la Russia. Non posso vedere io come sei bomba. Cazzo, tutti e due di dentro, cazzo, e riporto la fotografia. E poi che fai per tanto c'ho la macchina col tuo obiettivo, manco mi vedi, niente, e riporto nuovi nuovi. Gianni, ma io sono ammazzato, non mangio mia chitina. Andiamo da Prontollella, compriamo le pasta e le portiamo a casa come si dice a e io mi posteggio nel guardaroccio e ti porto la fotografia. Lo primo piano ti posso me. Cazzo, mi sputtano a tutte e due, e noi andiamo a Prontollella, se vediamo un bene in macchina portiamo a casa tua e te la fermo magna ti fermo una fotografia così ti impari. Ma io non mi lascio fregare. Suo diabetologo. Io non me lascio fregare da voi, cazzo, vi dentro al bar e vi frego, mi vedrai, lo manda a tutti gli amici civili, la foto. Gli amici dentro al bar controlliamoci tutte le macchine. Li facciamo la fotografia, tu li la portiamo al suo diabetologo, diciamo, mi guardi, signor medici, cosa fa? Dice pure che non ne mangia pasta, e lui di nascosto, eh? Ma io non ne mangia vero, però. E tu non ne mangia, cazzo che la va via la macelleria, e io penso che sì, non viene più la macelleria ma ti è rimasta la gara della crema, se metti pure a me come si fa la crema, e mi hai detto me, non lo dire a Gianni, se confetti un po' di mignì. Eri i mappassini, Natali, non te ne mangiati, Arisa. Veramente, ce li avevo me, i papassini, la verità, ce li avevo, ma non ne ho mangiato uno o due, mi pare. Ne che ne ha giocato la gappa da sopra e me ne ha mangiato due in tutto. Ma se ce la mangia di mia moglie, a chi è la nuova diabetica? Capito? È per forza, perché me gli ha dato, vai e mangiatelo, a chi io non ne volevo. Se mi si vuole mangiare lui poi sono vinti. Io vorrei andare da Brottolle la bilare, poi ho detto dopo me li mangio tutti io. Mio figlio e mio nipote ne mangiano un po', che cavolo, e dopo rimanere a me, allora non la giubiliardi. No, io la giubiliardi, però c'è mia moglie testimone, mi. Due ne ha mangiato, contatti. Ne ho mangiato, senza la cappa pure. La cosa lì c'è tutto zucchero. Ne ha giocato due cappa e ne ha mangiato senza gappa, due. E c'è mia moglie testimone qua, a forza a me le ha mangiate perché non ne volevo. E ti fai cucina, poi di notte ti invece ti rimani di notte. Natalie, ma in quel bar che ci siamo preso il caffè vicino all'Eurosfive dopo che d'ora ci vai ogni tanto tu? In quale bar? Quello che c'è a fianco all'Eurosfive dopo che d'ora ci abbiamo preso il caffè noi due insieme. No, non ci vado io, e spento al bar e appigliamo un caffè e buh, non immagino. E dove vai a prendere il caffè? Dove vai, Natalie? E adesso non sto uscendo, andavo sempre alla Moccadori a pigliarmi il caffè quando c'era Luciano che usciva, andavo a trovare a lui io più che altro. Ma la Moccadori c'è via Giovanni Pascoli? E lì andavo. Ho capito, bisogna che metto la telecamera. Luciano, ma come sono primi sono da mangiare la macchia. E tu non sai mai cosa andava in chiva, che aveva la pasticceria a fianco e non li bastava chi sono di rubare in base si pigliava pure chi si di la pasticceria a Memurito a fianco. No, pigliavo i pasticcini per Memurieri, la verità è giriglia. Capito, bello bene, io non me ne nego. No, no, Natalino andava più giù e c'è Maltagliati. E anche da Maltagliati me l'ho preso il caffè. Ammetti le tue colpevolezze. Un caffè io mi pigliavo, basta non mangio una magnata chi. Sì, manco quando ero, quando noi ero diabetico ne mangiavo, mi la verità di ricchia. Ma adesso te ne viene più la voglia perché vuoi più mangiare, allora il proibito piace a tutti. Ah, a me non me ne viene di canna di dozzi. E mamma non era diabetica, e parte non ne mangiava né dolce né nulla. Ed era diabetica, ah vabbè. Sì, ma rimane con la mortadella. Oh yeah! Ah, chi si sì? Sì. Le baguette cazzicace, che buone. E poi con mia zia ne ha la mamma la mortadella con un panino. Non ma con mia zia, sappia che non ne poteva mangiare e rimane roba a te. Ma comari le cose non ne mangio io. No, no, tre tisurone buoni, Edu, no di più, la verità si dica. Guarda, ero alla Conata di Auchan. Sono entrato e ho girato subito a sinistra dove c'è i dolcini e mi sono preso due canoni siciliani, due cestini che c'è la panna, la frutta, è un troppo buoni, quattro mi ha giomigliato. Se non mi dà caso mi ne ha solo due, a chi viaggio mi ha giomigliato due. E poi dopo ho mangiato mi sono mangiato in altri due. E chi si vede a me piatti, no? Chi si viso con buruva a me? Però non ne no, faccio perché sennò cazzo mi rimane a vero, chi si ammebbiati nei cannuti? Ma che sono? Quelli che hanno la ciliegia in punta? Cappa, rosa la parte e verde all'altra. Ho capito. Sono di sfoglia, no Natalia? No, è fatta in una maniera, non è sfoglia, le cialde le so fare io, buoni brissi, buoni, gli gialli, buoni, lì, infatti mi, ma non le faccio, che se no mi tocca mangiarmeli, a chi se mi piace ne va a guarda. L'unica cosa mi piace sono i cannoli mia, sono cannoli siciliani, puoi mettere anche la scorza d'arancio, invece delle ciliegie. Il cioccolato, quello in scaglie, ci mettono. Natale, cosa hai fatto? Ricotta e poi cosa c'è in mezzo che dà quel sapore buono? Zucchero, cazzo, i canditi ci sono, gli arugrivi. Cazzo, ci mangio chi su una tavola a 5.000 la glicemia. Oh già, protollerano le vasiche. Ma non lo so sinceramente, non l'ho mai visto. Ma sicuramente ci sono le pasticcerie che li fa. Eh sì, io l'ho trovato lì alla Conat e c'erano sempre vetrino, ma i cestini sono troppo buoni. E poi hanno quella specie di panna e crema, tua crema sotto, ma così buona. Anche la frutta è buonissima, la verità. I cestini? Si chiamano i cestini. Te ne accorgi perché è fatto tipo conchiglia e c'è un po' di panna sopra, sotto c'è la crema. E poi c'è la frutta sopra, c'è l'uva, la prugna mi sembra, o la sosina, ma la soffie, e poi l'arancio, ma buono, eh? Ah, sì, sì, già riconosco, in gelatina è la cosa sopra. È un bel buono, insomma, mi chiamano i cestini. No, non sapevo che si chiamavano così, sinceramente. Ma io l'ho saputo la prima volta che l'ho preso, dico la prima volta perché già tre volte che l'ho preso, chi dà? Quando ho detto, mi dà quelli lì, cestini, ho detto, ah, cestini, sì, vabbè. Mi dà due cestini? Ma consenti, mi ho preso due cestini, che cazzo di cose? Natalina, ma che l'hai inteso? Ui, ui, ui. anche i canoni siciliani, domani andrai dopo Reni. Sì, vabbè, io da Popolle da solo una vita, dalla volta che sono caduto non sono più tornato. Sì, ci ha scioccato così un bel. Sai colpo che ho preso, è stato un mese con la costola che mi faccio papà, sicuramente me l'ho fratturato. Ho sbattuto al bancone di lato, mi avevano appena operato, quindi l'equilibrio non era più. Sicuramente ho fatto una mossa che non ce l'ho fatta, sarò in equilibrio e sono andata giù. E praticamente ho sbattuto al bancone che è fatto in marmo. E dopo ci ho giù in terra. E sono usciti tutti i pasticcini, mi hanno portato fuori. Tranquillo, no, non già me ne vado, sono tranquillo, avevo un dolore, non potevo stare. Sono andato a casa con questo dolore e così me l'ho portato per un mese questo dolore, passando pomate e tutto, niente da fare. Da se c'è qualche cosa là, ho inclinato, ho fratturato. Beh, se è fratturata riesci a respirare anche male, te la accorgi subito, perché io ho avuto due volte le cose fratturate. Ma era lateralmente, capito? Io ho preso di là. La cosa, la cima di lato, non da avanti. Ho capito. Natalie! E gli stavo dando il premio al cane che sta mangiato tutto. E bisogna dare un premio a chi viene a domandarti io, cazzo, vuole mangiare finché che non ve lo dai. Hai capito? Laio. Poi tutte queste cose si muovono fare dei demoni, tu si è allontanato la mano, e hai pigliato la sciabaccia delle magnata. Era dato il booster al cane. Allora vedi che zitto adesso, perché gli ha dato il premio. Ma chi bene si bosano, se tu non gli dai conto, io vado i denti con voi e non mi sono capizzato che io l'avevo mangiato tutto. E allora ha attaccato a mangiare. Si già, ma mara tu ti si rubo, puzzinoso. Un attimo che faccio uscire il cane. E l'ha abituato male, tu gli dai un primo, non sempre tocca a comprarsi per il booster. E poi li compro per lui, non ne mangio io booster. Li compro per lui solo. Perché che ti è abituato, no? Viene, ci siede e ti guarda. E tu se non gli dai problemi si può mangiare. Che bello. Quanto c'ha adesso Natalì? 8 anni c'ha già. È un anno più grande di Tyson. Tyson ne ha 7. Ne compie 8 a marzo, 16 marzo. A dicembre li fa lui. Vabbè, comunque più o meno sono la 60. Ero mio, non so quanti anni fa, dei due cucciolotti va giù. No, me ne ammetto, guardare il suo libretto di circolazione. Non lo sai da quanto ce li hai, scusa. Tre anni mi pare. Solo. Prima l'acqua che mi avevo 8 mesi me l'ha ammazzata. Affettuosi pure tu. Eia, un bel affettuosi. Ma me lo ammetto, mi ricava il naso. Eia, sono ben curiosi, bravi voi. Però quando vedi una persona che non la conosce, un casino che fa, Sant'Antone. C'è una ragazza che porta il cane giù. Questo cane è esagitato, purtroppo, ti brinca il naso, è agitato, ci vuole aiutare con Tyson, gli ripeto il tribunale che c'è su Fusetti, poveraccio. È una femmina, ma dice, speriamo che cambi questa ragazza, detto, perché adesso va bene il cucciolo, però no, ma già cambiano adesso perché sono come i bambini, no? Quando sono piccoli giocano, poi diventano più tranquilli. Ti ha detto che anche in casa è così, è agitato. C'è la gente che vede, li salta addosso. Allora, mi è arrivato un messaggio, adesso devo scrivere. Quanti mesi mai? Avanti la e cappa. Te l'immagini, uno di Caserta era che abitava a Montreal, 3 anni c'è. Montreal, in Canada? Sì, il Quebec ho collegato, Nord America. Adesso mi... E con quell'apparecchio lo stai? Con quello, con questo. Ma? Allora già va bene, dai, vedi busso. Ma sempre le frequenze alte. E allora? In banda laterale, giustamente. Oh, io già ci vado poco in banda laterale, ci vado molto poco, sto molto qua, ma in banda laterale, qualche volta così, se sento la Francia, cosa ci vede a parlare. però ho collegato anche l'Inghilterra, invece la Scozia. Sì, la Scozia ho collegato io, l'Inghilterra, Manchester ho collegato l'Inghilterra, Edimburgo in Scozia, la Galizia ho collegato, cosa non ho collegato? Che sì. Ma giurgo su pieno. Ti stai facendo il diario di stazione? No, in un blocchetto ce li ho segnati, ce l'ho mi log, volendo. Tanto ce le date tutto, la frequenza, dove li ho collegati. Cos'è? Ce l'ho mi log, non mi ricordo che l'ho messo, ma ce l'ho. Anch'io ce l'ho, però sono da un po' prima, lo stavo facendo, poi mi ha scocciato. E intanto, chi cabron, non ho più nessun interesse, capito? Mi interessa il collegamento e basta. Cazzo, un russo burro va via, la gubica due elementi, buzzinoso, io ero grido, cazzo, chi battini. E beh, è lui che ti ha collegato a te praticamente, perché ti punta l'antenna, io addirittura col PMR omologato sono arrivato in continente, perché quello lì aveva l'antenna direttiva, l'ha puntata verso di me e mi sentiva. E infatti, no, lui ha parlato perché ci hanno doppia polarizzazione, no? E quindi era in verticale quando... se no arrivava più basso, invece arrivava 5-9, cazzo, anche il russo, 5-9 arrivavano voci, cazzo, c'era una bella propagazione. Oggi c'erano gli Stati Uniti, mi stava dicendo che li stava ascoltando dalle 3:30, solo che ero curicato io. Sì, vabbè. C'è sempre attaccata la radio, ma comunque già sono soddisfazioni. E dai, io faccio pure il tempo che devo telefonarla, mandare messaggi, mi rompe le scatole. Va bene, causa forza maggiore, femminucce, quella attacco la parte mia, ci sentiamo. Ciao Tarino e ciao Gianni, ciao ciao. Ciao ciao Tony, ci sentiamo, e adesso chiudo anch'io perché tanto devo portare il cane in giù. Ebbene Natalia, adesso siamo a Platamona. No, cazzo, sono sempre ben divisi, temi. Ho trovato l'appuntamento, meno male, a Platamona proprio, il giorno 15 per farmi un eco Doppler delle vie venose, perché hanno fatto solo quelle arteriose e il chirurgo vuole vedere anche quella venosa. Allora mi tocca andare a Platamona di 15, ma qua già ci ho fatto l'appuntamento. E vado il giorno 15. E quello è l'interessante, che sei riuscito a trovare il posto, perché adesso è tutto una maradà, cercare posti per fare visite, tutto casino, non ce n'è più di posti. E ieri era Porta Torres, per esempio, a visitarmi il chirurgo vascolare. Sì, sono andato anche a Porta Torres, ho fatto la visita oculistica lì, da professor Greenberg. E cappa, adesso vediamo un po', tanto io mi dovrò visitare anche io, mi pare di buvare la visita cardiologica e la visita oculistica, adesso ce li ho nella borsa, quello che mi ha prescritto la diabetologa, perché a marzo devo andare a fare la visita diabetologica. Io a dicembre devo andare. A dicembre devo fare teorie delle 24 ore e le analisi del sangue. Vabbè, vediamo un po' da cosa mi dici. La di 15, così lo telefoneggio ai chirurghi e vediamo un po' cosa dal referto cosa bisogna fare, se mi danno una cura, che cazzo ne so. Adesso cammini tranquillo? Sì, sto camminando, solo che se cammino troppo mi fa quel dolore lì, è sempre quel dolore ciò. Però mi ha detto un chirurgo a camminare, quando mi viene il dolore a fermarmi, quando mi basta il dolore a tornare a camminare, sa, 2 ore pure mi ha detto. Ma tu mi hai detto che non ne avevi più ultimamente. No, che arrivare al garage non mi fa più male, se vado più in là magari sì. Ah, ecco. e un po' ti ha, diciamo, dai, un po' di più sofforti. Sì, ma un dolore, cazzo, mamma mia. Quando si viene, cazzo, si viene, ma fai tutto. Non mi puoi dare di dolore, Natale, che ne ha già passato, ma carità, non dormi la notte, da dolore, ma dolore però, dolore da gridare, cazzo, da non stare proprio qua. E nemmeno l'antidolorifico mi faceva un cavolo. Vabbè, già, io me la chiudo che mi guardo la televisione. Ci sentiamo alle prossime, dai. Grazie per il QSO. E alle prossime, salutando anche 10 di più quelle all'ascolto, dai, quelle ti per me. E allora, ciao, ci sentiamo, ciao Gian Maria, se sei all'ascolto, e ciao a tutti i tuoi amici ascoltatori.